pentolo. Arrivarono gli indiani, ci tagliarono i coglioni. Tornarono a piangere perché le palle di riservare il castino per gine. Susanna, non piangere perché le palle di riservare il taschino gentile. Cavo nella valle con le palle a pezzoni, tagliarono gli indiani, ci tagliarono i coglioni. Susanna, non piangere perché le palle di riservare il taschino gentile. Susanna, non piangere perché le palle di riservare il taschino gentile. Le palle di riservare il taschino gentile. Palle nel gilet, se fossero le mie, cazzo, il giorno il taschino. Palle di riservare lo zaino da campeggio.